Per saperne di più sulla scaletta di quest'oggi, i riferimenti li trovate sia sul sito internet della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, dove trovate gli ospiti di questa puntata, poi le uscite in sala di oggi, giovedì 5 giugno, i nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, il link per riascoltare la puntata precedente della scorsa settimana e poi tutto l'archivio del 2014 e del 2013. Per quanto riguarda la pagina Facebook, stesse cose, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ecco noi Alessandra Russo, ci sei? Ci sono, eccoci. Lo Russo, co-direttrice della terza edizione del Mushroom Film Fest al Teatro dell'Orologio, in pieno svolgimento, è cominciato martedì 3 e andrà avanti fino a domani venerdì 6 giugno. Ben ritrovata Alessandra, terza edizione, cos'è il Mushroom? Ben trovato a te. Il Mushroom è un primo festival in Italia dedicato al mashup e remix, cinema sperimentale, quindi parliamo di nuovi linguaggi contemporanei, di film molto, molto belli, molto divertenti e molto diversi, diciamo, dal comune, per durata, per sperimentazione, perché sono film che sperimentano diverse forme di arte, diversi generi cinematografici, utilizzando spesso la tecnica del mashup, che è un rimontaggio di eventi di frammenti preesistenti che vengono poi remixati e creano un'opera diversa. Ecco, quest'anno ci siamo aperti anche al teatro, perché una delle due location è un teatro, l'altra è un museo, la Rapacis, quindi un posto straordinario, per cui noi sì, avviciniamo, parliamo di cinema, ma di cinema a cavallo tra arte contemporanea, tra musica, teatro e così via, quindi molto, sempre più aperture e possibilità di spaziare. Alessandra, sono per la scelta dei materiali, le vostre sono scelte artistiche, tecniche o che altro? Ci sono tre elementi, sia tecniche, perché bisogna essere molto abili nel montare, soprattutto sono i bravi registi che hanno partecipato quest'anno, sono dei bravissimi montatori, e quindi una tecnica importante. Poi l'impatto emotivo, direi che è la cosa più importante, perché al di là della perfezione tecnica o della bellezza artistica, ecco, come c'è, cioè, l'impatto emotivo, che è molto forte in tutti i film, perché sono tutti emozionanti o hanno delle fotografie bellissime, insomma c'è un forte coinvolgimento emotivo. E poi appunto le forme d'arte, la sperimentazione tra le arti e la sperimentazione tra i generi, quindi queste due cose che arricchiscono, sono tre elementi importanti che ci contraddistinguono. Immagino vari formati per quanto riguarda le visioni, quante opere presenterete? Stiamo presentando ben 120 opere da tutto il mondo, ma su una selezione iniziale di 1200, quindi abbiamo visto e selezionato 1200 film, selezionandone sì, appunto un circa 10%. Sono film che vanno dall'animazione, musicale, documentario, sperimentale, remix, tutti ovviamente in chiave mesh, quindi tutti film che presentano un forte linguaggio di sperimentazione artistica. Mm-hmm. Dicevamo terza edizione. Qual è stata la molla all'inizio per realizzare un festival di questo tipo? Un grande amore verso il cinema contemporaneo, quindi la possibilità che il cinema tradizionale non fosse l'ultima versione del cinema, nel senso che il cinema è un'arte molto giovane, ha 118 anni se non sbaglio, per cui è ovviamente in continua evoluzione. Noi italiani forse non siamo ancora convinti, non ci siamo rassegnati all'idea che questo che presentiamo noi è un cinema del futuro, ma è il cinema del presente, perché negli altri paesi si sperimenta molto di più, quindi questo amore nato 3 anni fa è sempre più forte, ed è più forte perché ci mandano tantissimi film da tutto il mondo e abbiamo ospiti da tutto il mondo. Questa cosa ci fa molto piacere. Uno degli obiettivi di Mushroom è quello di far conoscere, di promuovere queste opere e di promuovere un cinema nuovo, che è il cinema di oggi e il cinema del futuro. Quindi ampia partecipazione, sempre crescente. Il pubblico come risponde? Il pubblico bene, perché sono diversi target che si incrociano, diversi, molti registi, molto, quindi da tutto il mondo. In questi primi due giorni abbiamo visto un artista finlandese, uno da Taiwan, uno dalla Germania, dall'Olanda, che poi si incontrano, si conoscono e quindi diventano artisti da tutto il mondo, che poi creano anche opere successive. Ad esempio, un regista 2 anni fa ha incontrato un musicista al festival, e quest'anno presentano un'opera che realizzano insieme, quindi anche una cosa, diciamo, da sperimentazione anche nell'opera collettiva che si viene a creare. È un pubblico molto variegato, internazionale, italiano, devo dire molto numeroso in questi giorni, quindi la candelina numero 3 del festival è spenta con felicità. Benissimo, allora i riferimenti a questo punto, visto che siamo alla perfetta metà del festival. Esatto, stasera siamo ancora al Teatro dell'Orologio a partire dalle 17 fino a mezzanotte, una selezione molto interessante. I film del programma sono contenuti, tutte le informazioni sul sito, quindi www.meshrom, scritto Milano Ancona Savona Hotel Rome Film Fest, e per scriverci info@meshrom.org. Da domani siamo alla Rapacis per la giornata conclusiva, alle 11 la Lectio Magistralis di Peter Greenaway, il grande maestro del cinema. E poi abbiamo una bellissima cerimonia di premiazione con il concerto dei Pollock Project alle 21:30 e una bellissima installazione di Danilo Torre, un artista mesh che ha realizzato per noi anche la sigla. Quindi vi aspettiamo numerosi, che dire. Una curiosità in conclusione, Alessandra, avete estensioni anche durante l'anno? Sì, stiamo realizzando degli eventi sia durante l'autunno che durante l'estate, proprio per promuovere quei film che per noi, ecco, possono avere anche una forma di promozione in altri luoghi, quindi all'interno di festival partner sia in Italia che all'estero, come abbiamo fatto nel passato, che in eventi all'interno di altri tipi di altri luoghi non convenzionali, quindi da librerie del cinema a teatri, musei e così via, insomma. Quindi seguiteci tutto l'anno, perché siamo attivi 12 mesi su 12, insomma. T'abbraccio e a risentirci presto. Ti abbraccio io, grazie a tutti quanti e vi aspettiamo. Ciao. Ciao, ciao. Alessandra Lorusso, co-direttrice della terza edizione del Mushroom Film Fest al Teatro dell'Orologio qui a Roma dal 3 al 6 giugno. In linea con noi c'è Pierpaolo De Lauro dell'associazione culturale Chilab, per parlarci del mediometraggio Man of Glass, che sarà presentato quest'oggi a Roma, Cinema Avvenire, qui a San Lorenzo, oggi giovedì 5 giugno in serata. Pierpaolo, ci sei? Sì, ciao Federico. Oh, è curioso sentirsi anche via radio, Sì, è molto curioso, quanto siamo colleghi da tanti anni. Allora Pierpaolo, partiamo dall'associazione culturale Chilab, di cosa si tratta? Allora, guarda, Chilab è un'associazione che abbiamo, insomma, abbiamo aperto, siamo cinque ragazzi, per, diciamo, per mostrare un nuovo volto della cultura, che sia molto più semplice, molto più fruibile e soprattutto che sia in grado di creare connessione tra le persone, che sia in grado quindi di svilupparsi autonomamente. Per questo, diciamo, il nostro obiettivo è quello di creare proprio queste connessioni, di mettere in comune le persone e di proporre magari delle proposte che non siano, diciamo, mainstream a tutti i costi, ma che abbiano una loro originalità. E quindi in questo caso il film Man of Glass si presta bene, perché è il film di un'autrice che non è conosciuta in Italia, si chiama Temenuga Trifonova, ed è il suo primo mediometraggio, ed è, diciamo, ed è una storia particolare che esce un po' dai classici canoni. Sì. Uno, perché è un mediometraggio e oggi, diciamo, è difficile trovare nell'ambito del cinema, diciamo, questa misura di un'ora. Sì, da sì, presentare. Infatti anche questo è una difficoltà, perché non c'è spazio, né nei festival né diciamo in sala, per andare in sala normalmente, perché i festival cercano o i cortometraggi o i lungometraggi. Poi anche la storia è particolare, ma soprattutto come è nato è quello che ci ha colpito di più, perché questo film diciamo nasce grazie a un finanziamento che arriva dalla Berlinale Talent Campus, che insomma ha finanziato Temenuga Trifonova, che per realizzare questo prodotto. E diciamo, il finanziamento è stato di soli 30.000 dollari, quindi sì, non è una cifra enorme, però Temenuga è riuscita a realizzare un film diciamo in modo professionale, utilizzando attori professionali che provengono tutti da ambiti teatrali, utilizzando tutte le attrezzature, insomma a livello professionale. Basta vedere e non si nota la differenza, cioè si vede che è un prodotto di qualità, è fatto in un certo, insomma, con tutte le cure del caso. Questo ci ha colpito molto, perché insomma pensiamo alla situazione un po' del cinema in Italia: è difficile ricevere dei finanziamenti così per realizzare un progetto che è un'opera prima, e soprattutto è difficile portarli, anche se in caso di finanziamento, è difficile portare a termine un lavoro fatto bene. Sì, sì. Senti Pierpaolo, due cose. La prima, si tratta della vostra prima uscita pubblica, e poi sì, se fate riferimento un po' a tutti i campi artistici o vi rivolgete soprattutto al cinema? No, allora questa sì è la nostra prima uscita pubblica e facciamo riferimento a tutti i campi artistici, quali cinema, design. Soprattutto insomma ci affascina molto il design e il ruolo anche dei makers, cioè coloro che sono tornati alle origini del fare gli oggetti, del pensare e fare, che quindi proporsi come una sorta di nuovi artigiani. Questo anche ci affascina molto. E anche, cioè, tornando sempre a Man of Glass, anche questo diciamo un prodotto che possiamo definire nell'ambito dei makers, sì, artigianali, seppur con tutte le caratteristiche di una professionalità. Certo. Senti Pierpaolo, ci lasci i riferimenti internet della vostra associazione per saperne di più? Sì, allora tutte le informazioni si trovano su keylab.co. Keylab con la K, chiaramente. Con la K, sì. Keylab, okay, con la K.co. Ci trovate anche su Facebook con insomma sempre Keylab con la K.co. Su internet trovate tutte le informazioni, insomma, sul chi siamo e anche diciamo i progetti man mano che metteremo in cantiere. Siamo nati da poco e, come sappiamo, in Italia è difficile riuscire a portare avanti progetti culturali e riuscire a creare queste connessioni, quindi piano piano, sì, in futuro speriamo di... Avete già calendarizzato altre iniziative oltre a questa? Guarda, di stasera? Per il momento no, okay, però insomma tra luglio, mese di luglio, qualcosa è in cantiere. Benissimo. Che, insomma, diciamo di non... insomma non ne parlo per scaramanzia. Va bene, io ti abbraccio Pierpaolo, a risentirci presto per le novità. Ok, ti ringrazio, ciao Federico, buon ciao, lavoro. Ciao, per a te, ciao. Pierpaolo De Lauro dell'associazione culturale Keylab per parlarci del mediometraggio Man of Glass, che sarà presentato questa sera a Cinema Avvenire giovedì 5 giugno. Parliamo ancora di festival. È la 12ª edizione dell'Asian Film Festival a Reggio Emilia dal 7 all'11 giugno. Ne parliamo con il direttore Antonio Termenini. Antonio, ben ritrovato. Grazie, buongiorno. Allora, raccontaci un po' di questa 12ª edizione. Dunque, inizia dopodomani, terminerà mercoledì con una serie di proiezioni di film provenienti appunto dai paesi dell'Estremo Oriente, come è nostra tradizione. con film, molti film provenienti da Taiwan, anche per marcare un po' la, diciamo, alcuni cambiamenti importanti rispetto agli anni passati, quindi il tentativo da parte della cinematografia taiwanese di scostarsi un po' dal cinema d'autore, ma essere anche, affrontare anche il cinema di genere, horror, thriller, commedie, quindi più di intrattenimento e più esportabili. Poi altri film di maestri come Takashi Miike, come Aung San Suu, come Simon Liang, quindi registi che già conosciamo bene, il pubblico già ben conosce, sono gli ultimi film di questi registi. E poi, ripeto, qualche sorpresa che penso possa essere interessante appunto per il nostro pubblico, che anche a Reggio Emilia ci segue oramai per il quarto anno consecutivo. Antonio, ci sono delle, visto che si parla di un intero continente e quindi di vaste proporzioni anche cinematografiche, delle cinematografie di rilievo che stanno emergendo con prepotenza? Beh, alcune sono emerse, direi, all'inizio degli anni 2000 con grande prepotenza, penso alla cinematografia coreana, altre sono trasformate appunto con grande intelligenza come quella taiwanese, altre hanno mantenuto la loro tradizione come quella giapponese, però molti film interessanti vengono anche dalle Filippine, ad esempio il Vietnam si sta aprendo, come dire, gli spunti sono veramente molti anche dalla Malesia, dall'Indonesia, da Singapore stesso, quindi, come dire, anche cinematografie che prima di fatto non esistevano o comunque erano veramente inaccessibili stanno, come dire, avendo uno spazio sempre maggiore, stanno conquistando una visibilità sempre maggiore nei festival internazionali, e anche così hanno un segno abbastanza distintivo, ecco, e riconoscibile rispetto al passato. Saranno presenti anche alcuni autori delle opere che proietterete? Purtroppo quest'anno no. Direi quest'anno no, e in questo senso potevamo avere, infatti ne avremo Ring 1 e Ring 2, potevamo avere come ospite Hideo Nakata, io mi auguro che lo possiamo avere anche a breve, anche prima della prossima edizione, perché appunto in questi mesi abbiamo instaurato con lui un ottimo rapporto, e quindi è una carta importante che ci giocheremo comunque nei prossimi mesi. Il festival è suddiviso in sezioni, avete anche focus di approfondimento? Beh, noi no, focus non li abbiamo mai avuti, devo dire. Noi abbiamo sempre avuto una sezione competitiva, un concorso, alcuni film fuori concorso di registi già conosciuti, quindi di registi appunto come quest'anno Simon Liang, Aung San Suu, Takashi Miike, che come dire appunto non hanno bisogno del concorso, e abbiamo invece appunto una sezione come Newcomers, che cerca di mettere in luce nuovi talenti, nuovi registi alla loro opera prima, al massimo opera seconda. Ripeto, quest'anno manca la retrospettiva, che è sempre stato un nostro pezzo forte, perché nel corso degli anni abbiamo invitato grandi registi, da Tsukamoto a Ussio Siena, Chen Kai, a Jiazhan Ke, a Stanley Kwan, Briante Mendoza e tanti altri. Ripeto, ci sarà un assaggio, un'anteprima, la CAT, chiamiamola così, e penso proprio, sono anzi fiducioso e speranzoso che Nakata possa venire al più presto, ripeto, anche prima di una possibile 13ª edizione. Quante opere presenterete in questa 5 giorni? Più di 20, e quindi credo sia un panorama piuttosto ampio, forse non ampio appunto come gli anni scorsi, ma sempre rappresentativo, perché appunto ci sono film da Hong Kong, film da Taiwan, dalla Corea del Sud, dalla Cina, dal Giappone, quindi come dire, dalla Malesia, dalla Thailandia, quindi insomma direi che è piuttosto ampio, ecco, la proposta. Ci sono delle tematiche più ricorrenti nelle opere che avete scelto? Beh, il tema dell'adolescenza direi è uno dei temi ricorrenti, anzi il tema più importante, fondamentale, un po' in tutto il cinema dell'estremo oriente, poi trattato con differente sensibilità a seconda dei registi, a seconda dei vari paesi, però direi che è un tema molto molto trasversale, anche nella letteratura, anche in altre forme di espressione artistica. Quindi, come dire, veramente ci sono registi di vari paesi che riescono a trattarlo con grande delicatezza, evitando stereotipi, evitando tanti luoghi comuni. Quindi quello direi che è un tema trascinante e importante. Antonio, in chiusura ci lasci i riferimenti internet per la programmazione? Sì, è asianfilmfestival.info e anche il sito di Palazzo Magnani, palazzomagnani.it, in cui si possono trovare c'è anche una pagina Facebook dedicata all'Asian Film Festival, dove si possono trovare trailer, foto, ovviamente il programma e chi ci ha sostenuto in particolare appunto in questa 12ª edizione. Benissimo, allora un abbraccio e a risentirci alla prossima. Grazie, grazie a voi. Ciao Antonio. Grazie. Antonio Termenini, direttore del 12esimo Asian Film Festival a Reggio Emilia, a partire dal 7 fino all'11 giugno. Visionari su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. I riferimenti nuovamente per quanto riguarda il sito della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, la pagina Facebook di Visionari e poi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Potete seguirci sia in diretta radio sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, sia tramite streaming, sempre dal sito della radio. Sulla homepage c'è l'opzione Ascolta la diretta. Abbiamo con noi Luca Franco, curatore della nuova stagione di Doc 3, a partire da mercoledì della prossima settimana, 11 giugno, fino al 3 settembre. Luca, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti. Come va? Scusate, sono per strada, quindi magari sentirete un po' di casino dietro, però perché c'avevo... Allora, detto bene, sta iniziando la nuova stagione, inizia l'11. Iniziamo, come si dice, con qualcosa che c'ha a che fare con l'avvenimento insomma più importante di questo momento, che è i mondiali di calcio. Iniziamo con un documentario su Socrates, che è un personaggio, sì, che ha fatto parte del grande Olimpo del calcio, però è stato anche molto, diciamo così, un'eccezione, perché con la sua squadra lui fece una specie di rivoluzione, no? Andando contro tutti gli stereotipi dell'allenatore conduttore, dell'allenatore come si dice, cattivo, che comanda su tutti, che non fa fiatare nello spogliatoio. Fecero con la sua squadra, che è il Corinthians di San Paolo, da democrazia corinthiana, in cui decidevano la formazione votando. Una squadra autogestita, diciamo. Una squadra autogestita. E vinsero 2-3 scudetti tra l'82 e l'83, insomma, quindi furono, come si dice, fu una cosa che funzionò. Sì. E questo ci può far riflettere anche adesso sul fatto che magari certe esperienze dal basso possono funzionare molto bene. Vabbè, questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia. Senti Luca, intanto che cadenza avranno le proiezioni e quanti sono i titoli in programma? Guarda, sono 13, una volta a settimana, tutti i mercoledì. Le prime tre puntate alle 23:10, tutte le altre alle 23:50, sempre circa, perché insomma in quegli orari, come si dice, le cose possono slittare di qualche minuto, insomma. Senti, facciamo, hai detto del primo titolo, facciamo un po' una panoramica generale rispetto alle proposte? Sì, guarda, ci sono delle cose che sono veramente, chiaramente sono il curatore, non potrei dire altro, però sono veramente belle, abbiamo scovato delle cose. Per esempio, c'è questo, il secondo, si chiama The Good Son, il figlio il prodigo, che parla di un ragazzo israeliano che a un certo punto convince i genitori a farci dare i soldi per andare a fare un master in Inghilterra. Sì. E invece di andare a fare il master in Inghilterra se ne va in Estremo Oriente a cambiare sesso, cioè come si dice, il documentario è iniziato perché lui si è autofilmato, sì, e dopodiché ha lasciato tipo 40 cassette davanti la porta della casa del regista per far poi filmare l'ultima parte quando lui incontra la famiglia, insomma. Quindi questa pure è una cosa molto molto bella. La scuola israeliana dei documentaristi è molto è una delle più, come si dice, floride, nonostante sia un paese, come si dice, da un punto di vista della realtà terribile, insomma, che c'è l'oppressione, insomma, queste cose qui. Comunque loro invece sono bravissimi a fare i documentari, proprio perché hanno a che fare con una realtà che è, come si dice, è incredibile, ed è uno dei pochi documentari che non è sulla guerra di Israele che ci è arrivato, quindi insomma una cosa interessantissima. Dopodiché un'altra cosa molto bella, anche questa molto sui generis, è un documentario sulle telenovele, no? Sì. Noi ci siamo sempre chiesti in Italia, chissà perché, se la televisione può influenzare il comportamento o il pensiero delle persone, no? E dicono sempre, ma no, non è vero, le persone pensano con la propria testa, e certi dicono no, è per questo che per da 20 anni siamo così, quello che volete, ma guardate questo documentario dove le telenovele turche e soprattutto una telenovela che si chiama Kismet, questo documentario si chiama Il destino delle donne, Kismet, di una regista greca, è stata fatta in Turchia e trasmessa in tutti i paesi arabi. Sì. Siccome questa telenovela parla di donne che si ribellano, no, ai propri mariti, che li amano tantissimo, però nel momento in cui sono tradite, oppure nel momento in cui vengono picchiate, si ribellano in maniera molto, come si dice, efficace, molto determinata, fino ad arrivare al divorzio, è successo che in molti paesi arabi questa telenovela ha fatto aumentare dell'80% le cause di divorzio. Quindi questo illustra, poi magari non è così, però da quando va in onda e ci stanno gli imam e si vedono nelle interviste che sono disperati, dicono no, basta, non dovete più vedere la televisione, sono brutti esempi. Quindi è un esempio, fa ridere, di televisione, diciamo così, virtuosa, no? Sì. Io non la vedrei così, insomma, è un po' esagerato, però è molto bello, devo dire, è un documentario che mi ha stupito. Poi, per cose anche sui generi, abbiamo invece ci sono sempre documentari sui migranti che vengono qua, ce n'abbiamo uno pure qua che si chiama Il rifugio Tsunami. Ah, l'abbiamo ospitato il regista, sì, ce ne ha parlato, sì. E questa situazione assurda che hanno messo i 116 profughi libici in un albergo sulle Alpi, sì, abbandonato, sì, insomma, sì. Quindi cioè, è molto bello questo qui. Però ci sono gli immigrati, ma ci abbiamo anche noi gli immigrati, e c'è uno dei documentari, c'è, molti italiani stanno iniziando ad andare in Cina, perché è un paese in pieno sviluppo, e c'è un documentario che facciamo il 9 luglio che si chiama Abbondanza di frutta, che è un nome, che è il nome della primogenita di questa coppia italiana che è andata in Cina, ed è di Emma Rossilandi e Alberto Ventennate, che sono due bravissimi documentaristi, e parla dell'esperienza per una volta di un italiano che è costretto a confrontarsi con un'altra cultura, no? Sì. Perché noi siamo sempre qui che diciamo sì, però se questi vengono qua, capito? Questi discorsi terribili, reazionari, si devono adattare alla nostra cultura, per una volta vediamo noi cosa vuol dire adattarsi a un'altra cultura. Capito? Non per fare la cosa, sì. Però comunque c'è bisogno di un'apertura e soprattutto di tenerezza verso la gente che viene qua. Vabbè, questo è sempre un altro discorso. Sì. Allora, poi il 20 agosto abbiamo The Square, bellissimo documentario che è stato fatto ultimamente anche al Valle Occupato sulla rivolta egiziana. Segue, sì, sulla primavera egiziana. Segue i tre protagonisti di questa rivolta, dall'inizio della rivolta, diciamo così, alla fine, diciamo così, o perlomeno a una grossa cesura nella rivolta, un grosso stop, che è l'elezione del capo dell'esercito a presidente, sì, dopo che era stato eletto il capo dei Fratelli Musulmani, sì, cioè era stato deposto, no? E quindi è molto bello perché per una volta la storia non la vediamo attraverso dei servizi televisivi, tramite un giornalista che se ne sta col giubbotto antiproiettile a 3 chilometri, no? Ma la vediamo dall'interno, cioè la piccola storia dei protagonisti si incrocia con la grande storia, che è la cosa, diciamo così, più bella da vedere. Sì. Poi abbiamo, come si dice, sempre sull'immigrazione, abbiamo questo bellissimo anche Limbo di Gustav Hofer, documentario sui CIE, questi lager moderni che nessuno ha il coraggio di chiamare col loro nome, no? Ma si chiamano centri di identificazione ed espulsione, sì. Di espulsione, scusa. E queste sono le storie delle persone che stanno là, che stanno là in questo limbo, non sanno proprio dove andare. E sembra, adesso io non so se questa cosa è vera, però insomma è verosimile, che a loro insaputa siano drogati con dei psicofarmaci. Mm-hmm. Adesso questa cosa la dico veramente con beneficio di inventario, per farli stare tranquilli. Sì. No, quindi no, invece di avvicinarsi all'altro, avvicinarsi, cercare di capire, cioè, come prima, con tenerezza, insomma, con amore, con no, questi qui, cioè, vogliamo solo levarci il problema. Sì, era quanto emerso anche in un altro documentario, Ponte Galera, che e ho avuto modo di vedere e proporre, sì, sì, è una cosa terribile, sì. Cioè tu arrivi in un posto, ti prendono e ti mettono da una parte e puoi uscire e ti drogano, cioè, sì. Mi sembra una cosa assolutamente. Poi ci sta un altro, invece sto sempre sullo sport, ritornando a temi, diciamo così, apparentemente più leggeri, insomma tutti i ragazzini del mondo sognano di fare i calciatori, no? Meno in come si dice, in Etiopia, dove invece i ragazzini sognano di vincere i 10.000 metri all'Olimpiade, che mi sembra un po' più sano, cioè perlomeno non sognano tutti di fare i calciatori. E quindi c'è questa città sugli altipiani etiopici dove tutti corrono perché vogliono diventare campioni, ed è una città che ha prodotto tantissimi campioni. Io mi ricordo quello che disse la Maratona di Roma, però insomma a piedi nudi, insomma tutti questi, insomma, questi personaggi mitici, no, del fondo mondiale. E questo è uno dei paesi che ne ha, uno dei, sì, dei villaggi che ne ha prodotti di più. E tutto è bello perché è di un documentarista molto bravo, si chiama Jerry Rothwell, che fece uno dei documentari più belli che abbiamo trasmesso, che fece più ascolti, che si chiamava Donatore Sconosciuto. Mm-hmm. È Jerry Rothwell in inglese, e tutto è raccontato attraverso il, diciamo, il padrone del bar, dello spaccio del paese, sì. Insomma, con la sua visione, quindi molto, anche questo molto. Senti, Luca, un po' di panoramica ce l'hai fatta. I riferimenti internet per il programma completo, ce lo puoi dare? Sì, guarda, c'è una pagina di Facebook che si chiama Doc3, sì, proprio così, e poi Twitter, che è @Doc3Rai, no? Sì. E comunque c'è la pagina doc3.rai.tv. Allora ricordiamo gli appuntamenti, che sono a partire dall'11 giugno fino al 3 settembre. Dici i giorni e gli orari. Ti dico tutti? Allora, no, indicativamente, insomma è un appuntamento settimanale. Guarda, mercoledì, tutti i mercoledì, dal prossimo mercoledì fino al 3 settembre. In seconda serata, il che vuol dire per i primi 3 appuntamenti quando c'è ancora il telegiornale di mezzanotte alle 23.10 e per tutti gli altri appuntamenti alle 23.50. Comunque se seguite la pagina Facebook, io faccio sempre inviti e mettete, come si dice, lo so piace, lo sai, io faccio sempre inviti, ricordo le cose, poi se vi perdete qualcosa io metto sempre i link ai documentari passati, quindi perfetto. Insomma, sarete molto coccolati, forse un po' troppo. Luca, io ti abbraccio, ci si vede presto. Va bene, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao. Luca Franco, curatore della nuova stagione Doc 3, a partire, dicevamo, dall'11 giugno, mercoledì prossimo, fino al 3 settembre. È con noi Franco Montinico, direttore della quarta edizione dello Spiraglio, Film Festival della Salute Mentale, al Nuovo Cinema Aquila qui a Roma dal 5 al 7 giugno, quindi a partire da oggi. Franco, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, raccontaci un po' tanto delle caratteristiche qualificanti di questo festival. Beh, il festival è un festival di cinema dedicato al tema della salute mentale e del disagio psichico. Non ci impressioni questo tema, perché questo tema si può, come dire, coniugare cinematograficamente nei generi più diversi, e nel nostro festival abbiamo dei film anche molto seri, molto drammatici, dei documentari che raccontano la follia, gli ospedali psichiatrici, ma anche questo tema raccontato invece in commedia, raccontato nei generi classici del cinema, quindi come thriller, come noir, come film di animazione. Diciamo che c'è un po' di tutto. Ci siamo accorti proprio selezionando i film che sono arrivati, che sono stati appunto scelti da un comitato di selezione per essere presentati in questi tre giorni, che l'argomento si presta davvero ad essere raccontato nei modi più diversi. In questi tre giorni noi presentiamo una decina di lungometraggi e altrettanti cortometraggi che appunto affrontano questo tema da tutti i punti di vista. Allora, la quarta edizione, come si sta sviluppando questo festival rispetto a diciamo le caratteristiche che mantiene, ma anche le innovazioni che si sta portando dietro? Sì, diciamo che il festival quest'anno si è arricchito soprattutto di momenti, come dire, che sono soltanto le proiezioni. Noi presenteremo ovviamente i film, proietteremo questi film al Cinema Nuovo Aquila. Tutti gli incontri e tutte le proiezioni sono d'ingresso gratuito, ma appunto si è arricchito di una serie di incontri con personalità del mondo del cinema, ma anche, diciamo, del mondo scientifico e medico, e con occasioni anche piuttosto fantasiose. C'è per esempio un incontro dedicato al calcio, il calcio come una delle possibilità per affrontare e per curare il problema del disagio psichico. Per ciò che riguarda il cinema, abbiamo in particolare due incontri con due autori, interpreti e registi che hanno raccontato spesso questo tema. Uno è Carlo Verdone, che non ha certo bisogno di presentazioni, e nel suo film spesso ci sono dei personaggi segnati da paure, da fobie, da ossessioni. Naturalmente Verdone racconta tutto questo con il suo stile più tipico, garbato, ironico della commedia. E avremo un incontro con lui nella serata conclusiva del festival, quindi a seguire la cerimonia di premiazione sabato dopodomani alle 21. L'altro personaggio invece lo avremo ospite questa sera sempre alle 21, ed è Rolando Ravello. Anche Ravello, sia come interprete sia come regista, si è avvicinato spesso a questo tema, ha raccontato, ha interpretato spesso dei personaggi un po' ai margini, dei personaggi anche in questo caso un po' diversi, segnati da fragilità di vario tipo. Penso per esempio alla sua interpretazione di Pantani nella fiction televisiva, ma l'ho raccontato anche come regista. Questa sera, dopo l'incontro con lui, presenteremo il suo ultimo film da regista, Ti ricordi di me, sì. Interpretato, protagonisti sono Edoardo Leo e Ambra Angiolini, e in questo caso la fragilità di questi due personaggi, tutte e due con dei problemi, uno criptomane, Edoardo Leo, l'altra narcolessica, Ambra Angiolini, sono raccontati, oltre che con grande affetto e con grande partecipazione, anche per sottolineare come questi aspetti non devono essere visti soltanto come qualcosa di negativo, ma anche come qualcosa che in qualche modo arricchisce la personalità dei personaggi e li distingue dall'anonimato della normalità e della massa. Quindi credo che, insomma, di occasioni per riflettere su questo tema ne offriremo molte. Ecco, proprio a questo proposito, Franco, volevo chiederti se è cambiato e in che modo l'atteggiamento verso il disagio mentale. Ma guarda, io direi che sta cambiando, e, come dire, orgogliosamente rivendichiamo anche noi un piccolo contributo a cambiare una certa mentalità. Nei confronti della malattia mentale si avverte spesso una sorta di aprioristica diffidenza, cioè una paura la persona che è soggetta appunto a un certo disagio è guardato come un diverso, come qualcuno che incute terrore, qualcuno da tenere a distanza. Ecco, invece noi crediamo che la malattia, come tutte le malattie, non ci sono malattie di cui bisogna vergognarsi, siano, come dire, appartengano alla patologia, alla normalità dell'umanità. E quindi il festival si è proposto fin dall'inizio e ha nel corso degli anni accentuato questo suo carattere, proprio quello di raccontare la malattia per superare questa diffidenza, questa ostilità, questa paura che c'è nei confronti di chi non è, tra virgolette, normale. Mm-hmm. E quindi attraverso i film, ma anche attraverso gli incontri, non è un caso che nel comitato, nella squadra che organizza questo festival, ci siano anche degli ex degenti che hanno avuto problemi in passato e che proprio attraverso il lavoro, attraverso l'attenzione, l'entusiasmo con cui hanno partecipato all'organizzazione dello Spiradio abbiano in qualche modo superato o comunque contribuito a superare i propri problemi personali. Mm-hmm. In chiusura, Franco, ci lasci i riferimenti per internet per la programmazione? Il sito, adesso mi prendete un po' alla sprovvista, mi pare che sia www.lospiraglio.it. comunque, se andate sulle mie pere di ricerca e Festival Lo Spiraglio avrete tutte le informazioni. Il nostro programma naturalmente è in rete. L'appuntamento comincia oggi, il primo incontro alle 18 con Dario D'Ambrosi, che è il promotore di attività teatrali dedicate proprio a disabili, e proseguiremo per tutta la giornata di domani, mattina, pomeriggio e sera, e anche per tutta la giornata di sabato, sempre a partire dalla mattina alle 10 fino a notte tarda. L'appuntamento è al Cinema Aquila, quartiere Pigneto, Roma, credo non ci sia bisogno forse di altro. Bene, un abbraccio e in bocca al lupo. Crepi, a presto. Ciao Franco, ciao. Ciao. Franco Montini, co-direttore della quarta edizione dello Spiraglio, Film Festival della Salute Mentale. Nuovo Cinema Aquila qui a Roma da oggi 5 fino al 7 giugno. In collegamento con Igor De Luigi, creatore della serie Ischiados, I Risvegliati. E intanto Igor, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie. Sono qua tra l'altro anche con Eugenio, che è il regista della pilota che avete visto. Ciao. Beh. Allora, mi era arrivata questa comunicazione, mi ha subito interessato, perché è una serie che, se non sbaglio, mescola l'immaginario della tradizione culturale sarda con l'horror. Sì, esatto, abbiamo rielaborato in chiave fiction horror alcuni dei miti, delle leggende più famose della Sardegna, tra cui i Mamutones, ne vediamo uno nella pilota. L'idea poi è di parlare anche di altro, non solo dei Mamutones, perché ci siamo documentati e interessati a tutti i carnevali della Sardegna, e non solo, anche ai riti e agli altri misteri. Faccio un esempio, i nuraghi per esempio, ma più avanti nella serie ci saranno tante cose, sì. Ci saranno tante altre maschere che vorremmo usare poi più avanti nella serie. Al momento quante sono le puntate realizzate? Allora, al momento abbiamo realizzato questa pilota, noi siamo una realtà molto piccola, quindi per noi è stato un investimento importante realizzare questa pilota. Abbiamo scelto di fare una cosa molto classica a livello di narrazione, con solo il colpo di scena finale del Mammutone, perché volevamo dare un'idea della qualità che potevamo raggiungere. Quindi abbiamo solo questa pilota al momento, ed è stata fatta con l'intento di capire il gradimento da parte sia degli utenti che di potenziali finanziatori. Senti Igor, com'è stata questa ricerca nell'ambito della tradizione culturale sarda? Come vi siete mossi? Ma allora, ci sono molti scritti e anche materiale online, e poi siamo andati a Mamoiada e abbiamo fatto diverse ricerche. Ringrazio anche chi ci ha aiutato, da Claudio Zedda a Marcello Fois. Poi a Mamoiada siamo stati dagli artigiani che realizzano queste maschere, tra l'altro quella che si vede nella pilota è realizzata proprio da un artigiano di Mamoiada, che è Ruggero Mameli e il figlio Daniele Mameli. Hanno realizzato sia la maschera che la pelliccia, e quindi siamo andati un po' in esplorazione, anche al museo etnografico, insomma in diversi posti abbiamo raccolto testimonianze. L'idea è anche quella poi di accoppiare alla fiction un documentario che spieghi proprio da cosa siamo partiti per creare la nostra storia. Quali sono le peculiarità dei Mammutones, ad esempio? Beh, i Mammutones sono una figura molto molto complessa. Sicuramente la cosa più affascinante è che ad oggi non esiste una sola spiegazione, sia della maschera che dei riti. La teoria più plausibile è che siano riti dionisiaci, si riprende da quel tipo di rito che era per la fertilità della terra, ma il Mammutone era anche una figura che si doveva sacrificare. E come detto anche dagli artigiani che abbiamo intervistato, in sardo la parola carnevale ha dei significati diversi dal resto d'Italia. Per esempio, caresegare, che vuol dire carne umana da fare a bello, in poche parole. Quindi un mondo molto complesso, affascinante, molto misterioso, quindi ci ha permesso di rielaborare tutto in chiave fantasy e horror. Senti, come mai questo titolo, Ischiados, i risvegliati? Allora, il titolo è che Ischiados è i risvegliati perché nella nostra fiction i morti tornano in vita, ovviamente più avanti nella serie spiegheremo anche il perché. In Sardegna ci sono tantissimi dialetti, è una lingua molto complessa, a tutti gli effetti è una lingua, non un dialetto, e questo Ischiados è proprio del centro della Sardegna, del nuorese. Sì. A questo punto ci dai riferimenti internet per saperne di più? Sì, allora trovate la pilota online sulla nostra pagina Facebook, Ischiados. Lì trovate, oltre alla pilota, anche una cover realizzata da Francesco Mattina, che è un cover artist per Marvel e DC, che ci sta aiutando e sta collaborando con noi, e anche un video tutorial con una maschera integrale che abbiamo realizzato insieme al makeup artist che lavora con noi in Chain Collective, che è Francesco Sansoverino. E a questo punto ti chiedo anche una breve descrizione dell'attività del vostro collettivo. Ok, Chain Collective è un'attività, come dicevo, piccola, appena nata. Facciamo produzione video e siamo specializzati soprattutto in effetti speciali fisici, quindi senza l'ausilio di computer grafica. Realizziamo da make-up, protesi, scenografie, animazioni meccaniche. Siamo un po' in controtendenza rispetto a quello che molti studi fanno negli ultimi anni. Abbiamo scelto questa specializzazione perché ci crediamo molto e poi perché pensiamo che in alcuni generi possa fare veramente la differenza. Bene. Igor, io ti abbraccio e a risentirci presto. Grazie a voi, grazie mille, a presto. Ciao. Igor De Luigi, creatore della serie Ischiados, i risvegliati. Visionari su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. Per comunicare con noi il telefono 0649 1750, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Eccoci con Simona Fasulo, regista dei documentari Tano D'Amico, la fotografia per pensare e anche per non morire dentro. Simona, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ben trovati. Due documentari dello scorso anno, li hai presentati pochi giorni fa qui a Roma. Raccontaceli un po', a partire da Per non morire dentro. Allora, Per non morire dentro nasce da un'esperienza che ho fatto per alcuni anni insieme con un amico, collega, al carcere di Rebibbia. facciamo volontariato semplicemente. Io personalmente tengo addirittura un cineforum, quindi entro nel carcere al Gin 9 e incontro queste persone che sono detenute e vediamo insieme un film e discutiamo insieme di questo film. Sì. Attraverso questa esperienza abbiamo conosciuto naturalmente diverse storie e quello che noi abbiamo raccontato in questo documentario che si intitola Per non morire dentro sono le storie di tre uomini, Massimo, Vito e Federico, tutti e tre più che adulti, cioè che hanno superato tutti e tre i 40 anni e che hanno avuto un'esperienza diciamo simile, perché tutti e tre sono stati arrestati per questioni di droga, diciamo, e che, tutti i reati collegati alla droga naturalmente, e tutti e tre hanno subito anche un'altra cosa abbastanza importante, abbastanza che definisce anche un po' la nostra Italia, la lentezza burocratica della giustizia. Cioè la storia per esempio di Massimo, che è proprio emblematica, di quest'uomo che nel 1994 viene arrestato con 24 grammi se non sbaglio di cocaina, è un ragazzino, ha poco più di 20 anni, viene arrestato per 2 mesi e poi viene rilasciato in attesa di giudizio naturalmente. Lui poi dopo qualche tempo va in una a recupero insomma e riesce a uscire dalla droga e appena esce dal centro di recupero parte per tagliare i ponti con l'Italia, con gli amici di un tempo eccetera, va in Spagna. In Spagna si rifà decisamente una vita, addirittura apre dei ristoranti dopo diverso tempo che sta lì. Il suo processo va avanti naturalmente, diciamo che lui non se ne interessa particolarmente, però cucinava, come racconta lui, per il console italiano, faceva su e giù dall'Italia, aveva il passaporto, finché nel 2012 arriva l'Interpol e se lo portano via, se lo riportano in Italia in pratica. Nel 2012, dal 1994. Ora è vero che la legge non ammette ignoranza ovviamente, quindi lui avrebbe dovuto forse informarsi in qualche maniera e poi lo racconta all'interno del documentario, però sicuramente è un problema abbastanza grave questo della lentezza della giustizia italiana. E diciamo che all'interno di questo documentario si parla anche di questo. Sì. E poi ci sono appunto le altre due storie, comunque sono tre storie che sono caratterizzate da una cosa comune, che è la possibilità di uscire da, e di cambiare diciamo percorso, che è un percorso decisamente, diciamo, a dire una parola gentile, disagiato il loro, perché insomma voglio dire uscire dall'eroina in 2 casi su 3, dalla cocaina nel terzo caso e dal carcere, lo si può fare diciamo così soprattutto perché si ha una passione e tutti e tre questi uomini avevano una passione. Massimo appunto la passione della cucina, uno Vito ha la passione per i cavalli e il terzo poi ha imparato invece in carcere che, a scrivere e quindi scrive racconti e attraverso l'amore poi è riuscito ad uscirne anche lui e queste sono tre storie emblematiche, tre storie importanti. La passione, il cuore insomma, bisogna metterlo ovunque, anche in un posto buio, triste e decisamente difficile come il carcere. L'altro lavoro, Simona, è dedicata a un amico, un grande fotografo, Tano D'Amico, La fotografia per pensare, questo è il titolo, un testimone direi fondamentale per quanto riguarda la storia degli esclusi di questo paese, ma soprattutto è legato alle lotte sociali, soprattutto nel decennio degli anni 70, ma poi non solo, sia prima che dopo. È un bel ritratto quello che ne hai fatto, parlacene un po'. Allora, intanto è stata una grande fortuna conoscere più da vicino Tano D'Amico. Io conoscevo le sue fotografie perché tutti le conosciamo, anche se spesso non sappiamo magari che sono sue, però le abbiamo viste di sicuro. Tra l'altro ho messo una sua fotografia sia nella newsletter che sul sito della radio, per la puntata di oggi è dedicata proprio a lui, insomma. Infatti è vero, perché nessuno meglio di lui può rappresentare i visionari della tua trasmissione, perché quei ragazzi che sono appunto ritratti lì in quella fotografia, in particolare che tu hai pubblicato sul sito, sono proprio i ragazzi del 77, sì. Quelli che hanno fatto questa lotta, questo movimento che forse alcuni ragazzi di oggi si chiedono effettivamente che cosa sia. E che hanno fondato anche questa radio, tra l'altro, proprio in quell'anno. E che hanno fondato proprio questa radio nel 77. Esatto. lo so bene, con tutti i festeggiamenti che ci sono stati recentemente, peraltro sì, Ambrosta sì, sì. Proprio per questo, no? Sì. E quindi io sono, cioè Tano è riuscito a cogliere un po' il senso di quello che era quel movimento, anche i movimentisti, diciamo così, coloro che hanno fatto il movimento allora, ancora adesso riconoscono che Tano è stato il poeta di quel movimento, perché, sì. Perché lui fa una fotografia di tipo particolare, non è una fotografia cronachistica, prima di tutto sono tutte foto in bianco e nero e poi sono foto che ritraggono i volti, le espressioni, i momenti particolari, colti quasi miracolosamente all'interno di una sequenza e quindi sono veramente fotografie che ci restituiscono un po' il senso di quel tempo, di quegli anni, di quella lotta. Lui tra l'altro, Tano D'Amico, che insomma penso abbia superato i 70 anni, va continuamente, continua sì, sì. Ad andare alle manifestazioni con la sua macchina fotografica, continua a raccontare quel mondo di diciamo così diseredati, mettiamolo tra virgolette, nel quale noi viviamo e che però ha cambiato diciamo significato in qualche maniera, ha cambiato segno e lui cerca di cogliere anche quel segno nuovo. La storia, sì. Sì. Uno dei passaggi più toccanti è quando esprime questo disagio, quando lui ha intrapreso questo percorso e ha avuto questo ruolo, cioè nella necessità di astrarsi rispetto alla scena, a quello che succedeva intorno. È stato un passaggio piuttosto toccante. Sì, perché quello che dice quando abbiamo siamo stati noi a fare i nuovi giornali e per nuovi giornali allora si intendeva fondamentalmente Lotta Continua, ma anche per il Manifesto lui ha collaborato, allora mi chiedevano di fare io le immagini e per fare le immagini, cioè per fare le fotografie, io dovevo astrarmi, fare un passo indietro, perché proprio il fotografo questo fa, no? Si mette un passo lontano dalla scena e quindi dovevo in qualche modo astrarmi, non ero più all'interno della lotta, del cuore pulsante. E però senza quel passo indietro noi non avremmo avuto restituite quelle immagini e quel senso sì. di che cos'erano effettivamente quegli anni. Simona, i tuoi interlocutori e interlocutrici sono nel documentario piuttosto trasversali, lavorano in ambiti piuttosto diversi, ma tutti riconoscono l'importanza del lavoro di Tano. Sì, sono persone veramente diverse. Abbiamo intervistato Agnese De Donato, che è una femminista, una delle prime femministe, fondatrice di EFFE, una persona magnifica ancora adesso, veramente magnifica, che ci racconta come ha conosciuto Tano attraverso una fotografia, che poi è la fotografia che rappresenta in qualche modo Tano D'Amico, è quella che la più famosa, con la ragazza con la bandana che sta tra due carabinieri, che probabilmente bianco e nero ovviamente, con degli occhi meravigliosi e così attraverso quella fotografia lei ha conosciuto Tano D'Amico e la fotografia poi è stata la più gettonata, come dice giustamente Tano. E gli altri sono Andrea Attardi, che è un professore di fotografia all'Accademia di Belle Arti e quindi andiamo proprio in un altro ambito e poi andiamo ancora in un altro ambito con Daniela Lancioni, che è la curatrice senior della mostra che c'è stata del Palazzo delle Esposizioni, della mostra che c'è stata sugli anni 70, in cui appunto c'erano anche degli scatti di Tano, degli scatti importanti che rappresentavano proprio quegli anni. E poi per ultimo abbiamo due altre persone importanti. Uno è lo stampatore che ha seguito tutta la storia di Tano, sono amici veramente fraterni e hanno lavorato sempre insieme. Lui si è messo al servizio diciamo dell'immaginario di Tano per cercare di servire nel miglior modo possibile delle fotografie che fossero stampate come voleva lui e quindi appassionato veramente. Mm-hmm. E l'ultimo è Paolo Tomassini. E Paolo Tomassini insieme con Daddo furono i due che spararono alla polizia nel 77, doveva essere gennaio o febbraio 77, a Piazza Indipendenza, furono poi feriti anche a loro volta e fecero poi lunghi anni di carcere anche loro. E anche Paolo Tomassini racconta appunto come lui in qualche modo ferito a terra ormai con le gambe insanguinate vedeva Tano che fotografava, ecco, e Tano è riuscito, tra l'altro Tano racconta che appunto ha messo da parte, non ha mostrato queste due fotografie che avrebbero potuto in qualche modo accusare questi due ragazzi, Dado e Paolo, perché c'erano le pistole di mezzo, e lui queste foto le ha tirate fuori 20 anni dopo. Sì, sì. E oltre a questa c'è anche a cui tra l'altro l'attrice Tamara Bartolini ha dedicato uno dei suoi red reading proprio su questa fotografia. C'è anche la fotografia, quella più celebre che tu citavi, che curiosamente invece Tano aveva rifiutato in quanto l'aveva trovata piuttosto scontata rispetto alla sua produzione. È buffissima sta cosa. Simona, per saperne di più sulla tua attività, ma poi su questi due documentari in particolare, ci sono dei riferimenti internet? Allora, intanto per vedere i due documentari si può semplicemente digitarne i titoli, cioè Per non morire dentro o E Tano D'Amico, la fotografia per pensare. Sono andati tutti e due in onda su Rai Storia, quindi volendo si può passare anche attraverso il sito di Rai Storia. Io sono stata molto colpita dalla prima intervista che hai fatto prima, appunto, in cui raccontavano, no? Raccontava delle telenovela turche, di come incidono sulla... Sì, sì. Siccome io vengo da lì, cioè nel senso che faccio la sceneggiatrice di fatto, ed è molto importante sapere quanto la televisione incide sulla nostra vita comune, non lo sappiamo fin quando e fino a quanto. Sì, sì, e sì. Quindi trovo che sia uno spunto interessante di conversazione e anche di riflessione, perché non solamente queste donne sono riuscite a ribellarsi attraverso la telenovela, ma c'è una storia bellissima che risale agli anni dell'Afghanistan, in cui addirittura tutti i fuoriusciti, quando arrivarono i talebani, i fuoriusciti dall'Afghanistan appunto, per cercare di insegnare alcune cose, salvarsi dalle mine antiuomo, cercare di procurarsi il cibo per gli afghani, si radunarono in Pakistan e fecero una radionovela, proprio una soap opera radiofonica, che poteva tranquillamente passare, diciamo così, attraverso la radio, perché c'erano le storie solite, le storie d'amore, le storie di passione, no? Però all'interno c'erano anche delle informazioni che passavano, diciamo. E quindi è molto importante, nonostante quello che si dica di tutte queste cose, sono molto importanti. Simona, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a te, ciao. Buon lavoro. Simona Fasulo, regista dei documentari Tano D'Amico, la fotografia per pensare e Per non morire dentro. In collegamento con Paola Malanga, responsabile del progetto Storie d'Italia, ospitato alla Casa del Cinema qui a Roma a partire dallo scorso 27 maggio e andrà avanti fino al 6 ottobre. Paola, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, abbiamo slittato un po' di una settimana perché mi sarebbe piaciuto parlare anche del progetto di Segre Sbarre, però facciamolo adesso, Paola. Sì, raccontiamolo lo stesso, perché il progetto con cui abbiamo deciso di aprire questa rassegna alla Casa del Cinema e con la Casa del Cinema, si tratta di un progetto particolare a cui teniamo molto, nel senso che Sbarre, che si svolge all'interno del carcere di Sollicciano, nasce in realtà come un laboratorio didattico al Centro Sperimentale di Cinematografia, coordinato da Daniele Segre, che ha pensato di portare i ragazzi che studiano appunto cinema e vorrebbero dedicarsi al documentario, ha pensato di portarli direttamente faccia a faccia con la realtà, una delle realtà più difficili da raccontare nel nostro paese. E quindi non è la prima volta che Rai Cinema si occupa di carceri, e questa però è la prima volta in cui vediamo dei ragazzi giovani, degli studenti di fatto, che si pongono il problema di come raccontare l'umanità che dentro il carcere si trova rinchiusa. Allora, Storie d'Italia, partiamo da questo titolo ma anche dalla scelta dei lavori che proponete. Storie d'Italia è un titolo molto semplice e molto letterale, perché se scorriamo appunto i titoli, di Sbar abbiamo già parlato, il secondo è Fighting Paisanos, che invece è un documentario di tipo storico, perché rintraccia, tra l'altro è sempre di un giovane documentarista, si chiama Marco Curti, e rintraccia degli italo-americani che durante il fascismo erano emigrati negli Stati Uniti e che decidono di tornare nel nostro paese con l'esercito americano per liberarlo appunto dal fascismo. Oggi sono i 70 anni dell'anniversario della liberazione di Roma, quindi non è casuale, diciamo, la proposta proprio in questa data. E anche questo ci sembra un modo diverso di recuperare una storia che non è soltanto d'archivio, ma che è una storia ancora molto forte, molto valida al presente, e che lo faccia un giovane ragazzo che ha anche una familiarità con un linguaggio documentaristico molto come dire, ritmato, anche accattivante nel senso giusto del termine, no? Perché anche qui ci si pone il problema di come raccontare oggi delle storie di ieri. Mm-hmm. Ecco, a noi questo piace molto. Sì. Andando avanti troviamo L'occupazione cinese di Massimo Luconi, che racconta la realtà di Prato, che è salita alla ribalta della cronaca più volte, e cercando non soltanto, anzi più che appunto i contrasti, i conflitti che sono poi in materia di inchieste di tipo giornalistico, cerca invece di trovare e trova i punti di contatto tra i cinesi e i pratesi. Mm-hmm. Quindi un'altra storia profondamente italiana dei nostri tempi. Mm-hmm. Il pane a vita, che invece sarà proiettato venerdì 20 giugno, di Stefano Collizzoli, racconta la fine di un'epoca, che è quella poi del posto fisso, del pane a vita, appunto, si diceva una volta, seguendo la vita dopo il lavoro, dopo la fine del lavoro, che peraltro arriva in modo del tutto inaspettato, seguendo la vita quotidiana di tre operai di un cotonificio che si trova in provincia di Bergamo, due sono sorelle e una loro collega. Sì, abbiamo avuto ospite, lui ce lo ha raccontato tempo fa questo lavoro. Mm. Bene, è un lavoro molto, molto forte, molto toccante, e qualche cosa. Allora, i temi possono, come dire, suonare. Dici, abbiamo visto tante volte, no, queste cose, ecco, così no, così io credo di no. Mm-hmm. Cioè, nel senso che i giornalisti fanno il loro lavoro, che è un lavoro di inchiesta, di denuncia, dando voce a appunto alle realtà più complesse e trascurate anche di questo paese, ma la forza del cinema documentario è un'altra, va in profondità, crea dei rapporti tra lo spettatore e queste persone che io credo poi non ti abbandonano più come spettatore. Sì, quindi sì. Questo è il grande valore del cinema documentario. Senti, Paolo, sì, vai, continua. Ecco, infine, in questa prima parte della rassegna, diciamo la parte estiva, che si chiude alla fine di giugno, il 27 c'è la proposta dell'ultimo titolo che Mie care mamme, mie cari papà, di Viviana Di Russo, in cui i protagonisti sono i figli dei coppie omosessuali, che raccontano semplicemente che cosa fa la felicità oppure no di un figlio, indipendentemente da quello che è appunto l'orientamento sessuale dei propri genitori. Sì, e anche sì. Questo è un punto di vista diverso, inedito, e anche molto godibile, molto divertente, perché a fianco dei bambini di famiglie omosessuali ci sono ben più problematici e quasi invidiosi i bambini invece eterosessuali, che spesso hanno delle famiglie disastrate dal punto di vista affettivo e sentimentale, e quindi appunto dicono: beati voi, no, beato te che hai almeno hai due mamme oppure mio papà, io invece nessuno praticamente, quindi sì. Devo dire illuminante in questo senso, molto, cioè. Molto, molto. E sono storie, ecco, queste sono, sono storie d'Italia, non, il titolo è venuto così spontaneamente, sì. Cercavo qualche cosa che potesse mettere insieme delle realtà e degli autori molto diversi. Ma c'è qualcosa, sono appunto storie d'Italia, cose che ci riguardano, sì, no? Sì, sì, direttamente sì. O indirettamente, ma che comunque compongono il mosaico della nostra contemporaneità. Sì, ecco, rispetto alla, alla scelta di questi titoli, in parte questa, questa, questo ultimo, questa ultima spiegazione ci dà chiarezza in questo senso. E volevo chiederti però, ecco, se c'erano anche altri criteri rispetto alla, alla mole di cose che avete selezionato, dall'estetica al, al, all'importanza al tema trattato, insomma. Dunque, vorrei dire, spero che questo sia, come dire, un primo assaggio, sì. No? E quindi a questi appuntamenti poi ci auguriamo, ma pensiamo proprio di sì, ne seguiranno altri e quindi appunto andremo a, ad esplorare, grazie ai registi, altre realtà. Il criterio... I criteri sono gli stessi che ci portano a, a coprodurre questi documentari, cioè a fare al fianco dei registi, dei produttori indipendenti italiani, soprattutto anche con un occhio di riguardo, direi, a quelli più giovani. Sì. Quindi i criteri sono delle storie forti, con dei punti di vista forti, originali, un impegno a stare dentro le realtà che raccontano, per restituirle in un modo, come dire, inedito, per farcele vedere anche a noi, perché noi siamo poi i primi, noi che coproduciamo, insomma, siamo i primi spettatori. Sì, ecco, proprio in questo senso, no? Paola, volevo chiederti quale vuole essere l'atteggiamento del servizio pubblico verso, verso questa importante realtà documentaria? Innanzitutto di grande impegno a, come dire, a emancipare il documentario dal fratello maggiore che è il cinema, che gode di un pubblico ben più ampio, ben più vasto, di un'attenzione appunto maggiore, di dargli tutto il supporto e la visibilità che merita. Questo ha già portato negli ultimi anni a un numero anche maggiore di coproduzioni, di interventi, nonostante siamo sempre a lottare con gli investimenti che insomma penso che il documentario italiano oggi veramente merita tantissimo. Mm-hmm. Però cerchiamo di fare il possibile, ci sono stati anche dei risultati eclatanti, cui forse la punta dell'iceberg ovviamente è il Leone d'Oro di Sacro Gra a Venezia. Proprio oggi abbiamo fatto una conferenza stampa in cui insieme a Gianfranco Rosi abbiamo annunciato il suo prossimo lavoro che si svolgerà in Italia, nell'isola di Lampedusa. Lui ha già trascorso qualche settimana, ma si stabilirà definitivamente, non sappiamo per quanto perché conosciamo il metodo di lavoro di Gianfranco, si stabilirà a Lampedusa a partire da settembre. Sì. Devo dire c'è molto interesse anche all'estero per i nostri documentari. Mm-hmm. E io personalmente sono convinta che il rinnovamento, la nuova linfa del cinema italiano verrà proprio da questo tipo di esperienza, cioè da un rapporto diverso con il reale, se mettiamo questi registi nelle condizioni di lavorare con serenità, perché il documentario richiede dei tempi a volte molto lunghi, sì, sì. Molto più del cinema. Quindi ci vuole, io credo, da parte di tutti questo impegno. E il servizio pubblico si impegna non soltanto attraverso Rai Cinema a investire, a produrre i film, ma anche a diffonderli, a darli in visibilità. Vorrei ricordare che Rai 5, di cui mi occupo, ha una serata alla settimana, che è il venerdì sera, una prima serata, poi ci sono anche le cosiddette ribattute nel corso delle giornate successive, ma una prima serata dedicata al documentario cinematografico, al documentario d'autore, con scommesse anche forti, con scommesse anche difficili che sembrano impossibili. Voglio ricordare l'ultima di venerdì scorso, Materia Oscura di Massimo D'Annunzio. Come no, come no, lo conosciamo bene, sì. Ecco, lo conoscete bene, e invece è stata una grande sorpresa dal punto di vista del pubblico, perché il pubblico ha risposto molto bene sia venerdì sera che anche poi nelle repliche dei giorni successivi. E questo, devo dire, ci rende bene. Dovrebbe renderci tutti orgogliosi. Cioè, senti, in Italia un pubblico appassionato, interessato, sì, sicuramente dà diritto di vedere queste cose. Paola, in chiusura, ci dai riferimenti per la programmazione di Storie d'Italia? Internet, se ci sono, c'è un sito oltre quello della Casa del Cinema? Ci sarà, adesso lo stiamo approntando, anche sul sito di Rai Cinema, quindi www.raicinema.it, dove troverete anche una sezione dedicata ai documentari, e alcuni anche si possono vedere gratuitamente cliccando sopra le finestre con i vari titoli. Paola, io ti ringrazio. Volevo aggiungere un'ultima cosa, ma ne parleremo magari, perché tu giustamente all'inizio hai detto andrà avanti fino ad ottobre. Sì, ne riparleremo quando a settembre riprenderà la ripresa della stagione, insieme al Festival di Venezia. Più o meno ricominceremo in quel periodo e proporremo degli altri titoli. Benissimo. Allora, a presto. Ciao Paola. A presto, grazie. Ciao. Buone visioni. Ciao. Grazie. Allora, questa era Paola Malanga, responsabile del progetto Storie d'Italia, una rassegna di film documentari alla Casa del Cinema qui a Roma. È cominciata il 27 maggio, andrà avanti fino al 6 ottobre, ma avremo modo di riparlarne dopo la pausa estiva, tra luglio e agosto, perché ricomincia a settembre. Avremmo dovuto sentire anche Luca De Dominicis, curatore della sezione cinema del progetto Megatube. Avremmo modo, spero, di parlarne la prossima settimana. È tutto per Visionari, per l'appuntamento di questa settimana, di giovedì 5 giugno. E i riferimenti, di nuovo il sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, la pagina Facebook, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info.